Sembrava giusto con tutto il clamore che è stato fatto quest'anno, giustamente con l'uscita della nuova 500, di ricordare chi era stato il geniale designer che aveva progettato più di mezzo secolo fa questa splendida macchinetta che è un pochettino l'oggetto del Made in Italy più famoso nel mondo, oltre a tantissime altre automobili come appunto la Topolino, la 600, la 600 Multipla, la 128, la 124, insomma una incredibile serie di automobili che hanno fatto la storia della motorizzazione di questo paese e non solo, perché stiamo parlando anche della storia del design e della cultura. Come mai anche nel mondo dell'automotive, così come avviene spesso in televisione, ci si dimentica velocemente di chi ha operato e agito in maniera onesta e prolifica come Dante Giacosa? Ma perché purtroppo questo è un paese che ha molta attenzione per gli uomini politici, i finanzieri, cioè chi sta davanti ai riflettori, c'è pochissima cura e pochissima valorizzazione per chi invece dietro le quinte lavora e cerca di unire a una solida preparazione scientifica anche una buona dose di creatività. Io credo che appunto Giacosa fosse tutto questo e io ho scritto questo libro proprio anche per valorizzare coloro che in Italia ancora hanno la cultura del saper fare le cose per bene e soprattutto di lavorare per il successo delle loro aziende prendendosene una fetta di merito secondo me molto ma molto modesta e molto inferiore rispetto a quello che realmente meriterebbero. Siccome di queste persone in Italia ce ne sono ancora tante, ecco, io questo libro lo vorrei dedicare a loro perché appunto troppo spesso noi dei media, noi giornalisti tendiamo a occuparci soltanto di chi sta in prima fila, ma dietro la prima fila ci sono molte altre persone che lavorano altrettanto se non di più.